pensava il tuo morire fuori. Se volete mate a soffrire, ma il tuo amico è in porta di affone, fuori di fuente. Due venivi qui a te, ando con la gente. La tua felicità non mi ha portato a fare fuente. Se fai grazie che te arrivo e a sulla vera fuente. Thank you.